Vi salutiamo, buonasera, benvenute, benvenuti. Allora, è stato premiato, no? Vedo che qui c'è la collega Marisa Giordanella, è stata premiata Celestina Vanzini nell'ambito della rassegna Catalogo Aperto e ci facciamo ancora molti complimenti. Questa sera l'abbiamo qui con noi perché in biblioteca con la biblioteca c'è anche un legame, no? Con questa attività, con questa iniziativa, e ci piaceva sentire dalla viva voce di Celestina, con l'aiuto di Elena Bini, e sentire insomma quest'artista che ci racconta la propria opera, ma soprattutto anche volevo anche segnalare che Celestina non è solo un'artista visiva, ma è anche una poetessa, è una narratrice, è una persona che sperimenta più canoni e più settori artistici, e questo lo vediamo anche in fondo in queste fotografie con appunto delle poesie che ha esposto. Non mi dilungo, nel senso che io do solo il benvenuto qui in biblioteca, dove appunto racconto che c'è questo legame molto forte con l'arte, con l'ufficio cultura che organizza il catalogo aperto, qui rappresentato appunto dalla direttrice Marisa Giordanella. E poi c'è anche un servizio che insieme a Valentina Cramerotti, e qui abbiamo anche Giannotti, il presidente, noi stiamo portando avanti da anni, ed è un modo diverso di fruire l'arte. Alessia, sì, Piccoli, il progetto dell'Arteteca, ce lo racconta, ecco. Appunto, ormai noto ai nostri utenti, alle nostre utenti, ed è molto apprezzato. In sostanza, per far conoscere l'opera di artisti e artiste del nostro territorio, venendo qui in biblioteca c'è la possibilità di vedere le ultime opere che hanno partecipato alla precedente edizione di Catalogo Aperto, che sono state acquisite dalla provincia, e di scegliere l'opera che piace di più e portarla a casa prendendola in prestito per 90 giorni, scusate. Quindi è un modo per far entrare nelle case dei cittadini e delle cittadine l'arte, per poter appunto apprezzare ciò che sul territorio viene creato. E quindi insomma vi invitiamo a pubblicizzare presso i vostri conoscenti, amici, amiche, questa possibilità. Grazie. Grazie. Vuoi raccontare un po' chi veramente viene per inquadrare questo premio, che è arrivato alla terza edizione, è stato promosso dall'Ufficio Cultura appunto della provincia, per valorizzare il lavoro degli artisti e anche la loro creatività. E come viene valorizzato? Viene valorizzato pubblicando un bando al quale poi gli artisti e le artiste decidono di candidare un'opera, e queste opere vengono poi valutate da una giuria di esperti. Quest'anno erano tutte femminili, erano tre esperte, quindi siamo molto contente che Elena Bini, in rappresentanza anche delle colleghe, Claudia Corrente e Francesca Verga, abbiano appunto con grande disponibilità partecipato a questa terza edizione, e hanno deciso poi di selezionare da una quindicina di finalisti sei opere, che sono particolarmente equilibrate perché rappresentano stili diversi, tecniche pittoriche diverse, rappresentano anche percorsi diversi degli artisti. Due sono under 30, due sono artisti che stanno costruendo la propria carriera, e altre due, tra cui Celestina Vanzini, sono delle artiste che hanno già un percorso consolidato alle spalle, oltre che una forte formazione accademica. Quindi noi siamo molto contenti di come si è conclusa questa terza edizione, e anche ringraziamo appunto il circuito delle biblioteche di Artoteca che coordina la cooperativa 19, e la biblioteca Claudia Augusta è la nostra prima partner, perché avrà in esclusiva le opere qui in prestito del catalogo aperto di tutte le due edizioni. Perché la cosa bella è che queste opere rientreranno nel patrimonio della provincia, quindi faranno parte proprio della collezione d'arte della provincia autonoma, però le vogliamo mettere a disposizione del pubblico, in modo che tutti gli amanti dell'arte, quando vengono in biblioteca, oltre che prendersi un libro, potranno godere a casa propria di queste produzioni artistiche. Io quindi ringrazio tantissimo Celestina Avanzini e le rinnovo i miei complimenti per essere arrivata appunto in questa selezione. E la giuria poi tra il resto ha assegnato 6 premi, poteva sceglierne anche meno, per cui 6 ci è sembrato anche un bel numero, un bel segnale proprio di sostegno e incoraggiamento. E ha assegnato poi anche un premio monetario uguale per tutte, perché è stato valutato anche il valore delle opere e dell'impegno all'interno appunto di questa edizione in modo equo. Quindi lascerei la parola, lascio a voi di godere di questa conferenza, e in autunno ci saranno poi con le altre biblioteche del Circuito Artoteca altri incontri come questo molto colloquiale, dove gli altri artisti e artiste vincitrici potranno parlare di sé e delle proprie opere, quindi potete seguirci poi anche in autunno in questo percorso. Grazie e grazie alla biblioteca che ci ospita. Ricordo solo le altre biblioteche, certo. Così se vi capita di essere lì lo sapete, sono la biblioteca di Egna, la biblioteca di Ora, la biblioteca di Laibes e la Sandro Amadori, sempre qua di Bolzano, e vi invito a prendere il catalogo perché qua trovate ogni opera dove è collocata, e ci sono anche 2 opere di Celestina, quindi oltre a quelle che vedete qua che servono per raccontarla, potete anche prenderle in prestito. Si può prendere? Assolutamente sì. Quelli sono, si possono prendere? Questi cataloghi sì, sono con tutte le opere che ci sono in Artoteca. Ecco, poi l'incontro di oggi continuerà di sopra in mostra e per vedere anche gli altri vincitori, esatto. e conoscere le loro opere. Esatto. Grazie Elena. Grazie mille. Grazie. Beh, direi che iniziamo, no? Chiacchierare un po'. Un bel pomeriggio anche da parte mia, e ringrazio ovviamente tutta l'organizzazione perfetta, ringrazio Celestina di questa possibilità che ci dà, insomma, di sentire dal vivo un po' il suo percorso artistico, ma soprattutto effettivamente i contenuti anche delle sue opere. Praticamente con Celestina abbiamo pensato un po' questo, noi ci siamo incontrate qualche giorno fa, abbiamo deciso, lei mi ha raccontato, io l'ho conosciuta meglio, sì. E poi abbiamo deciso un po' di raccontare il suo percorso attraverso le opere, che sono veramente tante, perché effettivamente è un percorso artistico consolidato e che ha una lunga carriera, sì. Che parla con diversi linguaggi, che vanno dalla fotografia, dalla poesia, dal testo, dall'installazione, dalla scultura, secondo me anche un po' di performance c'è anche dentro, certo. Anche molto divertente. E poi abbiamo scelto alcune opere, forse un po' più recenti se non sbaglio, certo. Diciamo dell'ultima produzione, che però racchiudono un po' tutti questi aspetti e che hanno effettivamente molto da raccontare. È vero che è un percorso consolidato, perché come appunto diceva anche prima Marisa Giordanella, ha una carriera, diciamo una formazione di tipo accademico, parte anche da una formazione di sociologia, psicoanalisi, ma anche di Accademia di Belle Arti, parte dalla grafica. E tutto questo però, quando io leggo le sue opere, lei poi aveva riso quando ci siamo incontrate, io l'ho definita un po' un artista work in progress, perché secondo me ogni volta e ogni opera è in qualche maniera si porta dietro un qualcosa di passato, un'eredità del passato, guarda un po' al futuro, consolida qualcosa, lascia un po' certi aspetti da parte, quindi è sempre un ritornare su alcune tematiche e ripercorrere delle nuove. Parlando con Celestina mi sono segnata una frase, se posso dirla, poi ti chiedo magari di commentarla. Perché così almeno. E lei mi diceva: nella mia poetica artistica vado a ritroso per dire che in fondo quello che noi facciamo nasce prima dall'esperienza sensoriale. Lavoro di sentimento, ma insieme di pensiero e di razionalità. Quindi questi due aspetti di sentimento e razionalità. Sì. Posso chiederti se vuoi un attimo spiegarci questi due aspetti nelle tue opere, anche scovando in quelle che abbiamo portato qua, se c'è qualcosa di interessante. Cioè io non so come dire, vado di sentimento, perché se non sento qualcosa non mi ispiro. Quindi qualunque sia il sentimento, adesso poi dopo si può entrare in un sentimento o nell'altro, ma c'è un sentimento. Spesso c'è un sentimento che quasi sempre ha a che fare con amore e morte. Cioè, come dicevo a lei, fin da bambina io pensavo che avrei sconfitto la morte con l'arte, perché l'arte sarebbe stata qualcosa che avrebbe vissuto di più di me. Adesso poi pensando che anche la terra, sapendo che anche la terra è comunque a un tempo, vabbè, insomma, adesso ci rido sopra. Però cioè, allora era la mia convinzione, e proprio ripensando a questo che avevo detto a lei, io quando posso andare a Firenze, perché io mi sono innamorata a suo tempo e tuttora di Firenze, cioè adesso è post-amore, no? Vado a vedermi il Davide di Michelangelo, perché per me è qualcosa, io mi siedo lì vicino e sto bene, e sto bene, sto benissimo, cioè io sento un genio, sento qualcosa che mi porta via. E mi dispiace che ci sia una fine della terra, perché c'è una fine anche di un'opera così. E per questo vale per i grandi artisti, certamente non per me, voglio dire, insomma, io adesso non vorrei, cioè, essere fraintesa, non mi paragona nient'altro, cioè io sono Celestina, ma quello che io sentivo era questo, cioè l'arte è immortale, ero convinta. Non è così forse, però. Però siccome tutto inizio, tu mi raccontavi che l'inizio è stato tuo papà che ti ha regalato un cavalletto. Beh, l'ha fatto lui, perché lui era antiquario, restauratore con legni antichi, eccetera, e aveva fatto un cavalletto molto speciale, perché l'aveva fatto con il portapennelli. Può darsi che una volta, mio padre è nato nel 1885, quindi è stato uno sciagurato a mettermi al mondo, insomma, non era già troppo anziano, però mi ha fatto un cavalletto con il portapennelli, che è una cosa bellissima, proprio attaccata alla scatola e tu potevi mettere dentro pennelli, eccetera. Ecco, e mi ricordo, me l'ha fatto proprio lui con le sue mani, così come mi aveva fatto il tavolo per lo studio con il poggiapiedi, perché io potessi studiare poggiando i piedi. Ecco, insomma, aveva... ecco. Va bene, adesso allora andiamo avanti, però era questo del discorso della morte dentro i miei lavori, sì. È importante. Più che altro sempre questa vita e morte, no? Esatto, questo aspetto della vita, della morte. Vita e morte, c'è sempre. Esatto, gli altri aspetti secondo me che ci sono sempre è un po' questo utilizzo dell'elaborazione dell'opera in maniera molto complessa, partendo forse da, per esempio, se io guardo quest'opera, Anima Mundi, tu mi hai raccontato proprio tutto il processo. Adesso lo racconto. Che è veramente affascinante, ma la cosa bella che mi sono segnata è che tu poi riportami scritto... sul cammino, perché io mi perdo nel ricordo, nel racconto. Poi tu di quest'opera dicevi: guardando il quadro mi commuovo e mi chiedo, ma come ho fatto a realizzarlo? Sì, sì, sì, sì, sì, perché ogni tanto, cioè, soprattutto questo è un quadro che ancora mi dico come ho fatto. Allora ce lo racconto. Allora, adesso partiamo da un punto. Allora, io ho sempre avuto una passione per la geometria e per la luce, perché qui non è stato detto, però io per un periodo, cioè, ho insegnato anche matematica, amavo la fisica, mi avevano regalato alla terza media la vita di Einstein, perché mi piaceva la geometria. Io impazzivo, io la vedevo. Avevo un'insegnante così brava, scriveva libri di matematica, e io vedevo questi piani che volavano, si intersecavano, cioè per me era... Cioè, la matematica era un pensiero che io ho sempre amato, soprattutto la geometria. Poi dopo ci si fa un problema, quella è una palla, no? Cioè non è un'altra cosa. Diciamo che le visioni erano le cose. E per esempio le mie sculture tengono sempre conto, quindi, della geometria, della materia, della storia, del tempo, della luce, del tempo. Cioè, quindi, in verità, sono opere d'amore e morte, ma sono anche opere di fisica. Allora, quest'opera, lei ha visto un po' come è nata? Allora, intanto, qual è il lavoro principale? Quello di lavorare con la luce, quindi di fare una base dell'opera dentro delle doppie pellicole sviluppate che io diciamo trasformo in diapositiva, con colore per vetro, con polveri, può essere la polvere color oro, polveri d'argento, terre, in modo da ottenere, chiaramente se la luce passa, ottengo effetti, quindi sia di rifrazione, perché se la luce attraversa non è riflessione, ma è rifrazione, ed è diffrazione, quindi come dire, no, tutto quello che passa alla luce, ma ogni piccolo pulviscolo crea intorno un alone. E quindi si formano righe, percorsi. Ecco, la base di questo quadro è stata fatta quando è morto il mio primo cane, Levi. Allora, c'è la foto del cane, un brandello di foto del cane che ho esposto sulla Parma, no, una volta anche alla fiera qua, quando c'era la Kunsthalle, quando è morto il cane, ho fatto tutto dedicato a lei. E poi sopra, sovrapposto, questo lavoro di proiezione di immagine tramite pellicola, che poi fotografavo. Quindi c'è un doppio lavoro, il lavoro con la pellicola e la luce, poi la fotografia. Poi chiaramente questo andava per via digitale o per serigrafia in modo da stamparlo. Ma non è finito, perché poi chiaramente viene elaborato anche con la pittura. Cioè, per esempio qua alcuni rossi, cioè tipo non so, questo è un rosso che è venuto fuori effettivamente dalla pellicola, cioè dal lavoro sulla diapositiva. Questo però l'ho aggiunto io, cioè, per dire, mentre ecco il verde è della pellicola, quando vedete quasi un nero, il nero è perché c'è una polvere che non fa passare la luce, perché dove passa la luce io ho l'effetto di colore, dove la luce non passa io ho l'effetto del buio, quindi molti lavori hanno questa luce, questo buio che sono dovuti proprio al passaggio della luce, quindi doppia, tripla, diciamo fotografia, insomma, prima di arrivare all'opera. E poi però c'è il lavoro mio di lettura dell'opera e quindi di scelta su tante, magari anche 100, 200 opere, quella che mi piace. Addirittura sono anche capace di prendere poi un pezzetto piccolissimo che mi piace e di farlo ingrandire, ingrandire, tanto da ottenere qualcos'altro. E poi questo è, in questo caso, è lavorato poi con della resina, però ecologica, che vabbè, non è bella come l'altra, è più gommosa, però dà quel senso di traslucido, no? Quel senso così quasi di altro. Quindi c'è sempre comunque la luce. Quindi io non, in qualunque mio lavoro non ci sono tre dimensioni, ma quattro. C'è sempre la luce. con tutto quello che comporta poi il senso del tempo, perché la luce e il tempo sapete che vanno insieme. Cioè, il tempo dipende soltanto dalla velocità della luce, non esiste. No, infatti ecco che allora quello che appare poi nel quadro, se uno lo vuole leggere, è anche questa assenza di tempo. E diventa quasi cosmico. Cioè, qui è un'assenza di tempo. Sono galassie che noi vediamo e sono già morte? Sono galassie che, cioè, quando noi vediamo un'immagine di una galassia, magari non c'è già più. Ecco che allora questo quadro è diventato Anima Mundi. Cioè, ma pensate, sono partita, no, da questo, come dire, questo commiato con il cane che già... Scusa. No, ma tra l'altro c'è ecco, tutto un bellissimo... è diventato cosmico. No, ma penso che sia... Era un po' per spiegare, sì. No, che non è mai un lavoro che dipinge, io non sono una pittrice. Ecco, esatto, penso che sia proprio affascinante tutte queste sì. stratificazioni che ci e sono in nel questo lavoro. Io in fondo posso dirmi, anche se mi hanno paragonata molte volte alla corrente dell'oggettività astratta o poi concettuale, ma c'è qualche cosa che io... sì. Che io perseguo, no? Cioè che va oltre, è diverso da questa oggettività astratta, ma in fondo io sono vicino all'informale, non tanto nel risultato, a volte sì, perché come diceva Fontana, l'informale non è quello che tu vedi, ma il percorso che fai, che sì, fai per arrivare. Sì. Quindi in ogni mia opera è il percorso, poi magari il percorso... Chi lo conosce, lo conosco solo io, però così è. Chi me lo chiede, allora glielo posso anche raccontare. Ecco, è affascinante anche in questa idea del percorso, ci sono anche i titoli delle tue opere. Sì. Perché per esempio se io penso a questa, Lupo il poeta, il titolo effettivamente è estremamente significativo sì. di tutto il percorso per mio arrivare artistico. All'opera. Artistico, sì, sì, sì. E, sì. Che tra l'altro è un'opera molto bella, è molto anche recente. Molto, questa è più recente di quella. Esatto. Ecco. Quella che ho portato al concorso viene prima di questa. È una delle resine ancora fatte con la Crystal, però anche lì resine con l'introduzione di materiali. Però lì c'è uno studio molto preciso sull'ambientazione. Poi magari adesso vediamo dopo come vuole sopra, ecco, procedere. Sì. Ma, se avete delle domande su quello, cioè la sono riuscita a farlo diventare poi un mondo di galassie. Invece, sempre sul mondo di galassie, adesso il mio preferito che è questo, superare viaggiare i confini, viaggiare scusami, confini. Perché anche questa è una storia, anche in questo caso affascinante. E poi... qui effettivamente si unisce l'esperienza dell'artista, quello che l'artista vede, l'idea della fotografia, quindi la percezione di alcune parti di ciò che l'artista vede e poi la sovrapposizione della poesia e anche il concettuale di questa idea di confine, no? Di limite. E anche qui c'è una storia molto affascinante dietro. Che sarebbe bello se la raccontassi. La racconto sempre perché in fondo io... Allora, questo quadro che... Lo vedete tutti? Riuscite a vederlo? Allora, lo sposto? No. Questo quadro si chiama Viaggiare i confini. Sono tre pezzi. Qui io ringrazio la mia amica... Anna sempre perché ha insistito perché continuasse a finirlo. Ah, grazie anche da parte mia che mi ha preferito. No, perché io se no mollarei mollare. Allora, sono andata tutto parte sempre dall'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove io un giorno vado e cosa trovo? Il drappo funebre di Can Grande della Scala. Mi prende un colpo, nel senso che insieme, non si poteva fotografare, ci sono stampati naturalmente, dei disegni di tessuti orientali, fiorentini, ci sono degli stampati di tessuto, però non ci sono i tessuti, ci sono i disegni, insomma, no? Ma il drappo funebre di Angrande della Scala era proprio vero, un bel verde, un verde, insomma, tenuto bene, tutto a triangolini, un velluto. Beh. Lì mi appassiono i tessuti. Vado poi, dopo due anni, quello che è, al Castello del Buon Consiglio a Trento, dove c'è una mostra di tessuti, 1500, il periodo così, che uniscono, cioè mettono a confronto i tessuti fiorentini con i tessuti arabi, adesso non so esattamente, non mi ricordo di quale zona, insomma, del mondo arabo, comunque sarà stato l'Iran, probabilmente. E infatti qui trovate sia, diciamo, il tessuto fiorentino, però trovate anche il tessuto arabo, il tessuto fiorentino, insomma, poi dopo, ecco, allora io li ho fotografati. Ho fotografati tanti anche lì, ho fatto tre quadri, ma ce n'ho ancora, cioè ho scelto un po' i migliori. E ho pensato, lì sviluppo, siccome li ho fatti, ma per spiegare questo avrei dovuto parlare prima di quello, ma è lo stesso. Comunque, nell'onda del nuovo mezzo che ci rende tutti artisti, che è il cellulare, con o senza pretese, io li ho fotografati con il cellulare e poi li ho fatti stampare da Bini e l'idea era quello di unire quei due mondi, di unire quei frammenti di bellezza che poi chissà chi li avrà indossati, no? cioè tutta una storia, perché ci sono persone che li hanno indossati, qualcuno che li ha pensati, che li ha disegnati, quindi, ecco, quindi io porto un mondo antico al moderno, al contemporaneo. Nello stesso tempo tengo le soglie, perché anche le soglie hanno un loro discorso, sono molto importanti. Noi nelle soglie forse non sappiamo cosa c'è, però c'è qualche cosa, no? Sapete, anche quando si parla della soglia, o tanti, insomma. Quindi importanti sono anche queste soglie che uniscono e dividono e lasciano pensare. E Roland Barthes dice: non c'è niente di più erotico che quel frammento che vedi, no? Tra un, non so, una camicia, quel filo. Quel pezzo di libro che non riesci a leggere lo salti, ebbene, quello è quello che è più erotico. Ecco, allora io ho volutamente lasciato il bianco. Poi ho messo la poesia, una poesia che in parte è ispirata allo stile haiku e tanka giapponese, in parte è una poesia, cioè fatte da me con quello stile, 5-7, perciò Manuel, e in parte poesie che io avevo scritto, che ho scritto in proposito e che ho stampato sopra. Adesso volevo trovarne una un po' ironica. Ecco, per esempio questa è in stile giapponese. La Maddalena ha perduto il gatto nel cielo più blu. Oppure ci possono anche essere questa che a me piace molto, che è amore. Amore è dare un nome, dare alla luce, trattenere una mano, il sole che riconosci, la pioggia che ascolti, la terra secca, la terra bagnata, vivere e morire. Leggere un nome che altri hanno dato. E quindi c'è tutto anche qui una temporalità nella poesia, quindi nell'uso della luce, nell'uso, non solo, però non so cosa voglia dire, ho anche fatto le poesie in stile binario, 1-1-0, 1-0-0, però io non lo so che cosa ho scritto, se qualche informatico me lo traduce, esatto. Tradurre, no? Quindi abbiamo anche il computer, cioè quello che io adesso quando scrivo una poesia in verità devo passare attraverso questo strumentaccio che però che mi decodifica tutto, poi adesso che lo fanno con i quanti a doppia velocità, ecco, però ecco che questo, anche questo è un tempo, ma allora abbiamo il tempo, lo spazio, l'arte, la cultura, la vita, la morte, perché qua dentro, ma c'erano i francobolli, perché mio marito, Gianfranco, che è morto, aveva una stupenda raccolta di francobolli, adesso non li vuole più nessuno. Ho girato anche per tutta Trento con una valigia piena di francobolli, ho cercato qua. Come mai? Perché non valgono più niente, non c'è più la collezione di francobolli, non esiste più. Se avete una collezione di francobolli, tenetela lì, può darsi che, si sa mai. Oppure non si sa. Perché io ne ho ancora, non li ho buttati, però ho preso quelli che mi piacevano e qui dentro c'è tutto il mondo. Perché allora vi dico, qui Svizzera, la Svizzera con un tessuto del 1500, il ragnano ad esempio, la Spagna, il Messico, non so, la Grecia, la Cina, l'India, l'Italia. Dove è l'Italia? Poi sono bellissimi questi. Sono delle opere d'arte, francobolli, sono di una bellezza, sono anche molto vecchi, ecco, insomma, poi qui ce n'è uno, non capisco perché è della Somalia, quindi c'è un nero, e quindi a seconda poi di come mi piaceva metterli, non c'è un... C'è un senso solo estetico, solo poetico. Ho messo i francobolli. E così è venuta fuori questa opera che si chiama Viaggiare i confini. Viaggiare? I confini. I confini. Quindi, boh, insomma, comunque anche questa è stata, ecco. E appunto ho ringraziato Anna perché io dico no, ma dai, vai avanti. E qui è nata per me la definizione di artista work in progress, perché secondo me è un continuo ritornare. Ma lei è nato tutto lì da Can Grande, perché se non ci fosse stato Can Grande, poi i tessuti del Castel Bonconsiglio, eccetera. Ecco, qualche domanda, perché sennò vado alle origini. Di questo changer la femme, no? Cioè di questo grande cambiamento. Ah, ok, perfetto, sì. Perché strutturalmente queste due opere sono, ma anche agli concettualmente, antiche, sì, sono due cose completamente. Io ho dato un taglio con un certo, tipo di lavoro, mi ero esaurita. Ho fatto delle installazioni, vedi Dragonauti, vedi Maman, che sono opere in poliuretano, qualcuno le avrà viste, comunque sono cose, no, installazioni. Beh, ci sono poi lì dei cataloghi. Sono nei cataloghi, sì. Però, allora, io mi sono trovata in un momento dove ho dovuto chiudere l'atelier, che per un artista chiudere l'atelier, dopo anni che avevo atelier bellissimi, ho girato mezzo a Bolzano con i miei atelier, chiudere, insomma, portare i quadri in un garage, cioè non è una cosa da poco, vuol dire più o meno annodarsi e uccidersi, no? Però non si può fare diversamente, i soldi vengono a mancare, gli affitti sempre di più, certo, e quindi devi fare una scelta. Devi fare una scelta. Basta, non dipingo più. basta con le installazioni che costano migliaia di euro, basta, chiudi, ecco, ci riesco. Allora, io avevo fondato la colonia felina del Guncin ancora 30 anni fa, andavo a portare da mangiare ai gatti, quello ancora, e sotto non c'era più il mio atelier perché era lì sotto, e, però avevo un cellulare dei primi, perché questo è il primo, però è già un cellulare, un LG, i primi che facevano delle foto un po' tremende, no? Però i primi. E mentre cammino per andare dai gatti su e giù per il Guncine, eccetera, o che vado a Monticolo con il cane, sempre con l'altro cane, ma sempre con il cane, mi viene in mente questo, Il lupo e il poeta. Questa è l'opera, Il lupo e il poeta. Questa è l'opera che taglia e che apre il nuovo ciclo. Perché io sono un lupo che ha perduto il branco. Sono un lupo solitario, siamo tutti lupi solitari. Questa società multimediale, questa società, no, del, diciamo, in verità ci fa credere di essere con gli altri, ma non è vero, è un'illusione, perché ci vediamo attraverso un giocattolino che se si spegne tutto. Allora dico, ma se io sono, che cosa faccio però io con questo strumento? Io sono un lupo che ha perduto il branco, come tanti lupi. Ed io adoro il lupo, perché in fondo noi non è che siamo, cioè, meglio loro, anche noi uccidiamo, anche noi, no? Se ci pezziamo non è che siamo così buoni. Però faccio la foto e mi viene una frase, così, non lo faccio apposta, prima ancora da... Qui per esempio sono sul treno, torno da Roma, questi sono fatti a forma di cellulare, però sono la stessa misura di un cellulare, quello che veniva, sono sul treno, quindi vedete il viaggio, e scrivo, nel treno una famiglia accoglie. Perché io sono molto sola, quindi il treno mi dà il senso della famiglia. Un giardino per caso, un biglietto per riposare il dolore, perché sono andata a Roma per stare un periodo con un'amica e quindi non essere da sola. Qui sono a Monticolo con il mio cane e anche, insomma, e mi viene, guardo questo po' di rami su questo ghiaccio, mi piace moltissimo, e dico ghiaccio ramato. Ghiaccio ramato. E quindi scrivo sull'opera, ce ne sono tanti, poi ne ho scelte alcune da rendere, ecco, e quindi ho chiamato questa prima opera che stacca da tutte le altre, Il lupo e il poeta. Poi da lì, in seconda istanza, è venuta fuori questa, dove avevo già sperimentato l'uso della parola sull'immagine, insomma. Io poi che sono, appunto, vengo anche da un settore dove ho studiato tanto tutte le forme d'arte, di arte e linguaggio, trovo veramente queste opere proprio complete come opere d'arte. Certo, e, sono d'accordo. E una grande forza effettivamente del tuo lavoro viene fuori proprio dalla poesia, dall'uso del linguaggio, secondo me. Sì. In questi, anche nelle ultime produzioni del, diciamo, periodo Covid, mi trovo veramente dei lavori molto forti. Sì. Questo nuovo periodo è documentato qua, io l'ho visto anche poco. A me io non sono una che dipinge, cioè nel senso, insomma, non mi interessa, l'ho fatto all'inizio, perché all'inizio uno fa la grafica, quella ortodossa, le acque forti, l'acqua tinta, la tinta secca, non ho la forza. La partenza. Insomma, la partenza. Sì. Però adesso io la trovo, questa opera, proprio il punto di rottura, Il lupo e il poeta. Cioè, e ho detto, perché il lupo? Perché siamo, cioè, il lupo senza branco. E come diceva lei, io desidero un nuovo branco, mm-hmm. cioè desidero di nuovo, cioè, però è un nuovo branco perché quello era passato, quello certo. era passato. Certo, io non so adesso bene i tempi perché poi dovremmo anche andare sì, sopra. Finisco veloce allora quella e poi dopo andiamo sopra che c'è invece l'opera appunto. Sì, perché l'opera che ha vinto è comunque antecedente a queste. Ma questa è un'opera che viene appena prima questa, quando ancora c'è la resina crystal, ecco, è un lavoro sull'acqua. Qui io ero in pieno Covid, e allora cammino per Bolzano, da lungo al solitario, come ci hanno costretti tutti, però vado a fare la spesa. All'Eurospar, non so come si chiama, di Roma, e che ti vedo, gennaio, queste scale solcate dall'ombra dei rami dell'albero. E anche qui mi è venuta l'ispirazione. Io amo le ombre, cioè proprio anche le ombre fanno parte del mio lavoro. Quindi l'ombra sul muro, questo è il muraccio, poi ingrandito. E scrivo, ecco qui con altro colore, perché quando ci sono i lampioni accesi cambia colore. Poi, insomma, le opere sono 15, ho portato alcune, ma per farvi capire che io quella poesia la scrivo nel momento in cui mi ispira il luogo. Questo era già di per sé, non serviva nessuna parola per riempirlo. E qui sono inizio di primavera, infatti le prime foglioline, poi dopo insomma ancora però c'era questa passeggiata solitaria. Vi leggo questa. Questo è una specie di foglia, ombra di foglia, la muretta. Mi piaceva perché l'ho vista. Quanto buio nella luce di oggi. Finché non mi hai raggiunta, cercata, attraversata, oltre quel buio ci siamo incontrati nella luce vera. E qui io sono da questa parte della strada e vedo, queste sono le strisce poi del parcheggio, no? Queste bellissime foglioline che si sono appena aperte, l'ombra sul selciato. Ed è non lasciare che la nostra utopia si perda. E così finisce l'opera. Qui c'è una cicca perché quando abbiamo fatto l'ingrandimento per fare il posto con la mostra, l'assessora, non dico chi, dice una cicca per terra. Ecco, e questa era la poetica del cemento. Cioè, sì. Sì, anche molto bello il titolo, secondo me. Mm. Posso dirlo, uscendo da, appunto non ci siamo incontrate a casa, uscendo dalla porta uno esce con questa riflessione perché c'è questo poster ingigantito con la frase non lasciate che la vostra via si perda. Molto bello. Grazie. Grazie. Direi che andiamo sopra così.